2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questa è 2024, puntata del 2 giugno. Oggi siamo a Trento in diretta dal Festival dell'Economia, una ottima edizione anche quella di quest'anno. Siamo in diretta con tanti programmi e anche con 2024. Sono le 15:32 minuti. Benvenuti o bentornati, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Se volete chiamarci in diretta, il nostro numero verde è 800 24 0024, quindi 800 24 0024. Poi ci sono altri sistemi per raggiungerci. Nella prima parte del nostro programma parliamo di banda larga, di fibra ottica, perché siamo a Trento, siamo in Trentino e qui è partito ufficialmente un progetto molto interessante. Il 18 maggio si è costituita ufficialmente una società che si chiama Trentino NGN, dove per NGN si intende Next Generation Network. È un tema di cui parliamo spesso 2024 e sapete che c'è un grande dibattito in corso a livello nazionale. Questo progetto lanciato da Metroweb, dalla grande Metroweb, che è finanziata, supportata dalla Cassa Depositi e Prestiti e naturalmente anche Telecom Italia, ma molto probabilmente si raggiungerà un accordo per posare fibra nei prossimi anni in molte città italiane. Il progetto invece di cui vogliamo parlare oggi è un progetto che ha una prospettiva un po' diversa. Io saluto Sergio Bettotti, che è un dirigente della Provincia Autonoma di Trento. Benvenuto Bettotti. Grazie, eccomi qua. Ci diamo del tu. Tu segui da parecchi anni questi progetti di diffusione di internet, della fibra ottica, ma non solo di fibra ottica, di internet in generale. E prima di parlare di Next Generation Network, di questa nuova società che voi avete lanciato, per il momento la provincia autonoma ha la maggioranza all'interno di questa società, facciamo un passo indietro, perché voi da molto tempo, io ricordo anche un'intervista che noi abbiamo fatto qualche anno fa, vi siete impegnati, perché avete compreso le ragioni di cui parliamo spesso 2024, vi siete impegnati nella diffusione di internet della banda larga. Che cosa avete fatto fino ad oggi? Da quanto tempo? Sì, è vero, siamo partiti ormai da parecchi anni fa, era 2004, cominciavano i primi ragionamenti avere concretezza. Poi il dispiegamento vero è successo nel 2006 con l'avvio di una società in house totalmente controllata dalla provincia, che ha avuto come obiettivo, come missione, quella di chiudere entro il 2012 l'infrastruttura in fibra ottica di tutte le vallate, le 5 vallate principali del Trentino. Si tratta di un progetto di circa 800 km di fibra ottica, che oggi siamo nel 2012 e sta per essere accesa tutta entro quest'anno, che ha avuto due obiettivi materialmente. Il primo, quello di essere al servizio del sistema pubblico, perché è una società in house, quindi ha fatto un'infrastruttura per mettere in rete tutte le amministrazioni pubbliche. E questo è ormai realtà. Dall'altra parte invece la società, tutto ciò che avanza della fibra che è stata materialmente posata e nel rispetto delle normative che regolano questo mercato, che devo dire è molto complicato, molto particolare, sì, molto è stata messa a disposizione, viene messa a disposizione degli altri operatori, che a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie possono tranquillamente acquisire ciò che di più è stato posato per portare poi servizi in ultra broadband ai loro clienti, che sono i cittadini e sono le imprese e gli altri. Benissimo, allora questo è una parte di un progetto che è stato fatto fino ad oggi. Poi per ridurre il digital divide voi avete tramite bandi finanziato lo sviluppo della rete tradizionale, quella in rame ADSL, per portarla a tutti i cittadini, a tutte le abitazioni della provincia, e poi avete messo qua e là dove manca proprio il cavo del wireless, quindi del wifi, giusto? Sì, è vero, è perché l'infrastruttura poteva essere ed è stata utile per poter fare l'ultimo miglio anche del sistema pubblico, però certamente non ha risolto il problema dell'ultimo miglio, sì, del anche sistema perché privato. Qui stiamo parlando di un territorio piuttosto complicato, c'è la montagna, ci sono case sparse, non è che ci sono grandi città. Parliamo di un territorio, l'80% è montano. Sì, quindi è un po' complicato. Allora, alcune di queste cose sono state fatte anche in altre regioni, quindi altre regioni hanno investito in fibra ottica per portare la fibra nei punti pubblici, quindi nella pubblica amministrazione, si sono fatti bandi per ridurre il digital divide, però certamente qui da tanto tempo anche la politica ha compreso l'importanza. Nonostante noi 2024 ripetiamo e spesso ridiciamo cose che tra addetti ai lavori ci diciamo spesso, cioè quanto è importante anche per l'economia, per la democrazia, la diffusione di internet e proprio anche dell'infrastruttura. Perché voi spendete soldi per diffondere internet? Si spendono soldi per diffondere internet perché il movimento è parallelo ed è paralizzato su più fronti. Cioè, da una parte ci si sta muovendo per creare l'infrastruttura che serve materialmente, sono le strade su cui passano i dati, ma parallelamente si sta appunto lavorando per potenziare e costruire e far evolvere i centri di ricerca. Ormai ci sono dei centri di ricerca di eccellenza, il Trentino si è anche qualificato recentemente, è diventato un nodo europeo, l'unico nodo italiano per quanto riguarda l'ICT, quindi è un centro di competenza riconosciuto a livello europeo, dove di fatto arrivano i grandi player per poter spingere ricerca, ricerca applicata, e questi hanno bisogno di connettività perché poi devono connettersi col resto del mondo, con le loro imprese, con le loro aziende che stanno anche non solamente oltre il territorio del confine trentino in Italia, ma stanno nel resto del mondo. A fianco di questo c'è anche un'evoluzione del sistema sociale, del sistema scolastico, dell'istruzione. Un progetto partito molti anni fa ha portato lavagne interattive all'interno delle scuole, ormai ne sono state dispiegate più di 3.000 circa. Fare questo vuol dire avere o delle cose stand alone oppure fare ciò che invece serve, metterle in rete di modo che diventino poi un qualcosa che è uno strumento al servizio di tutto il sistema anche dell'istruzione scolastico. Ma a parte questo c'è anche tutto il sistema ospedaliero che è in rete in fibra ottica, e quindi vuol dire avere anche approcci di qualità maggiore che si possono avere come servizi per la tutela e la salvaguardia della salute e della sanità in generale. Quindi questi sono i movimenti che hanno caratterizzato sicuramente il Trentino in questi anni. Non solamente facciamo prima la fibra e poi pensiamo ai servizi, ma parallelamente lavorare per la fibra, con la fibra per intanto evolvere i servizi. Allora, sicuramente, lo diciamo spesso, c'è anche una leva economica molto forte. La diffusione di internet e dell'infrastruttura, quindi dell'infrastruttura da un lato, ma anche dell'utilizzo di internet, genera un avanzamento economico per le nazioni molto, molto importante. E una cosa che diciamo spesso, questa forse è un'infrastruttura la cui leva economica è straordinaria, molto più che una strada, una classica infrastruttura di quelle di cui si discute spesso. Quindi investire in questo è sicuramente un modo per guardare al futuro. A proposito di futuro, torniamo a quello che dicevo all'inizio. Si è costituita il 18 maggio questa società, che è Trentino NGN, che guarda i prossimi 10 anni, giusto? Sicuramente, guarda. Guardando anche agli obiettivi della Unione Europea, la famosa agenda digitale, che ci dice è necessario portare banda larga, ultra larga, nelle case di molti cittadini. Insomma, al di là degli obiettivi, al di là dei numeri, sostanzialmente questa società che cosa dovrà fare nei prossimi anni? Questa società dovrà materialmente completare quel lavoro che è stato cominciato nel 2006 e che vede adesso terminare l'infrastrutturazione in fibra ottica del Trentino. La missione di questa società è in un'area cosiddetta profittevole, cioè dove c'è una media profittabilità, dove si può fare un qualche cosa insieme anche agli operatori privati, quindi al privato, risolvere il problema dell'ultimo miglio, cioè portare l'ultra broadband, quello che viene chiamata la banda ultra larga, all'interno dei, principalmente dei centri produttivi e delle case, delle abitazioni. Sì, in tutte le case. Parliamo a proposito di banda ultra larga di 30, 50, 100 megabit. Parliamo in questo caso sicuramente di un obiettivo sfidante, perché sta sopra quello che sarebbe stato dato dall'Unione Europea, e la volontà è quella di portare i 100 megabit in ogni abitazione. Quindi l'Unione Europea prevede il 30 megabit per tutte le unità abitative, il 50 nel 50% invece il 100 megabit. Qui partiamo direttamente con l'obiettivo di provare ad arrivare coi 100 megabit in tutte le abitazioni. Questa società di cui parlavamo prima, di cui si parlava il 18, è partita, è stata la realizzazione adesso in questo momento formale di un percorso molto lungo, perché è partito già 2 anni fa nelle indicazioni che sono state poi date dalla Giunta su quello che diciamo era, poteva essere l'obiettivo di questa legislatura, di questo fare proiettato nei prossimi 10 anni per portare la larga banda all'interno delle case. Diciamo una cosa importante, che questa è una rete che comincerà a nascere tra pochi mesi, ma sì, verrà completata nei prossimi 10 anni. che sarà neutrale, non fornirà il servizio all'utente finale. Poi gli operatori classici potranno fornire il, ed è anche un modello che molti esperti mi dicono essere uno dei modelli benvenuti dagli operatori, perché un gestore della rete neutrale può garantire parità di accesso e condizioni a tutti gli altri operatori che per business poi fanno le offerte al consumatore finale. Questo è un po' l'obiettivo. L'obiettivo è questo. Poi oggi come oggi dire che vista come benvenuta da tutti gli operatori è decisamente una forzatura. Sì, perché no? Io parlo con quelli che, insomma, gli operatori che mi piacciono di più, cioè quelli che hanno un'idea di sistema paese, di crescita economica, che non guardano solo proprio al proprio giardinetto. Comunque diciamo che molti esperti ritengono che avere un operatore, così come Metroweb è stato a Milano, avere un operatore che faccia la stessa cosa in giro per l'Italia sarebbe una buona cosa, e questo è un esempio. Noi possiamo sicuramente dire che questa iniziativa è partita con un dialogo con tutti e 13 gli operatori che materialmente lavorano nell'ambito delle TLC in Trentino. Tutti sono stati invitati al tavolo per poter fattorializzare con loro quelli che erano i piani di investimento su un progetto che era stato costruito nella sua idea di risultato dalla provincia, perché materialmente ha cercato di favorire quella che era appunto l'accelerazione del portare la banda larga all'interno delle case. Certo, perché non può essere fatto, almeno in questa area di cui abbiamo parlato, cioè un'area dove ci sono molte abitazioni, dove ci sono anche molte aziende, quindi, come dicono gli esperti, a media profittabilità, dove ci si può fare business. Voi avete costituito una società che fa business, cioè alla fine dell'anno deve rientrare, deve avere un bilancio certo. Inattivo. Perché tutto ciò non è possibile farlo con solo denaro pubblico e quindi con una spinta esclusivamente fatta da, in questo caso, la provincia, poi potrebbe essere la regione, lo Stato, eccetera, eccetera? Questo direi che sta nelle regole del gioco che sono state date anche in sede europea, laddove questo mercato, il mercato del TLC, può essere supportato e sviluppato dal sistema privato, deve essere portato avanti e supportato dal sistema privato. Questa è un po' la conseguenza anche della privatizzazione del sistema che c'è stata dalla SIP verso Telecom qualche anno fa. Quindi è ovvio e normale che all'interno di un mercato che si viene definito nella classificazione che viene fatta all'interno dell'Europa come area media profittabilità, viene detto area nera o area grigia, cioè dove di fatto può esserci un tornaconto da parte del privato, è opportuno che sia il privato a sviluppare questa iniziativa. In questo caso potrebbe sorgere la domanda del come mai allora in questa parte c'è la provincia, c'è la provincia no? Con la maggioranza, tra l'altro, con la maggioranza. In questo momento, certo. Direi che in questo caso vale la pena dirlo subito. Noi parliamo di un'area a media profittabilità, parliamo di un Trentino che di fatto racconta 217 comuni, quelli di cui stiamo parlando sono 42 di questi 217. Questi 42 comuni assorbono circa il 60% delle unità abitative che saranno interessate dall'operazione, e queste sono quelle che sono indicate come media profittabilità. Sì. Ma media vuol dire che nel resto d'Italia ci sono zone dove c'è l'alta profittabilità. Quindi la scelta del sistema pubblico trentino era quello: o aspetto che prima facciano tutte le altre aree e poi gli investitori arriveranno anche in Trentino, oppure da ma allora vuol dire, esatto, vuol dire che tutta l'operazione che è stata fatta dall'altra, citavamo prima il nodo dell'ICT, le circa 800 imprese trentine medio-piccole che lavorano in questo ambito, e tutto ciò che si sta investendo in innovazione. Recentemente, non moltissimi anni fa, la provincia ha acquisito anche la competenza dell'università, dei centri di ricerca dell'università. Tutto ciò avrebbe dovuto aspettare. Avrebbe anni. Aspettare. Quindi si è cercato di accelerare. Questa è la prima parte di 2024 in diretta da Trento al Festival dell'Economia. Stiamo parlando del progetto del Trentino per portare fibra ottica in tutta la provincia in due modalità, potremmo dire. La prima attraverso una società che opera come un'azienda privata, poi ne parleremo tra poco, anche invece in una modalità supportata dal pubblico. Stiamo parlandone con Sergio Bettotti della provincia autonoma di Trento. Quello che ha detto Bettotti poco fa è molto importante, perché noi stiamo parlando e ne stiamo discutendo anche a 2024, stiamo commentando le notizie settimana dopo dopo settimana del dibattito nazionale sulla costruzione di una rete di prossima generazione in fibra ottica. E come dicevo all'inizio della nostra trasmissione, i due protagonisti sono attualmente Metroweb e Telecom Italia. Ma come diceva Bettotti, questi operatori, naturalmente, come è giusto che sia, guardano alle aree ad alta profittabilità. Ma visto che l'Italia è una grande provincia, il progetto di Trento e della provincia trentina è sicuramente un progetto interessante da guardare. Poi, visto che io sono anche un grande sostenitore del riutilizzo delle esperienze, del riutilizzo del software, del riutilizzo di tante cose, non vedo perché tante regioni non possano prendere questo progetto e magari, certo, adattarlo, ma voi state sostanzialmente guardando ad una provincia dove ci sono alcune città e alcune aziende, neanche grandi aziende. Sì, dobbiamo dire che in Trentino parliamo di una provincia di 525.000 abitanti, Trento, il capoluogo, fa 115.000 abitanti, quindi questa è la realtà che si sta affrontando. Possiamo dire che dei 42 comuni che abbiamo citato prima, che stanno materialmente sopra i 10.000 abitanti, ce ne sono 8. Sì. Quindi, visto che io dico spesso, ma non lo dico solo io fortunatamente, che queste operazioni costano sostanzialmente poco ma rendono economicamente tantissimo, quanto costa tutto questo gioco? Tutto il gioco, il business plan della società, sì, di cui abbiamo parlato fino adesso, ha una proiezione sui prossimi 8-9 anni ed ha un movimento di 165 milioni di euro. Che è poco. Questo è quello che di fatto è la base di partenza per fare questa operazione. Per portare fibra in quante case? Per portare la fibra in 135.000 unità abitative. Quindi stiamo parlando di poco più di un migliaio di euro ad abitazione. Sì, poco più di un migliaio di euro ad abitazione. Che è poco. Perché se qualcuno facesse la proposta per casa mia, io dico pago io per avere la fibra ottica a casa. E fossero tutti come purtroppo lei, saremmo contenti. Certo, no? certo. Ma come portate la fibra nelle case di tutti i cittadini in questi 42 comuni che sono, ripetiamo, una parte della provincia, ma sono quella più interessante? Poi pensiamo anche al resto, dopo le faccio una domanda, ti faccio una domanda sul resto. Ma l'operazione che poi ha visto appunto il fatto di cercare in quest'area di lavorare con degli operatori che già ci sono, e quindi in questo caso una delle condizioni iniziali era quella di vedere, di condividere i piani industriali e ciò che già esisteva di cose fatte dagli altri operatori, porta di fatto una collaborazione in questo caso con colui che di fatto ha la rete in mano oggi in Italia. Si parla di Telecom, che ha aderito a questo progetto, la quale ha messo a disposizione, conferendo all'interno della società, quella che è l'infrastruttura civile. Quindi finché sarà possibile si cercherà materialmente di passare per entrare nelle case all'interno di quelli che sono già i cavidotti, quelli che tecnicamente chiamano i corrugati, sì, che di fatto già esistono e arrivano nelle case alla presa, dove oggi arriva la presa del telefono. Che voi avete individuato come la modalità più semplice. Questa mattina ne abbiamo parlato per un paio di ore, quindi... Sì, diciamo che non è semplice, però senza tediare gli ascoltatori è chiaro, questa diciamo è la cosa più logica, ecco, è più facile e anche più semplice in quanto materialmente permette di arrivare in un presidio all'interno della casa dove già arriva la connettività per il telefono. Possiamo ipotizzare che il costo per il cittadino del servizio, posto che questa è una società che fornisce, diciamo, l'infrastruttura di base, poi saranno gli operatori, certo, a fare le offerte definitive ai cittadini, alle aziende, eccetera, eccetera, però possiamo ipotizzare che fra qualche anno il mercato possa offrire in provincia di Trento un servizio con fibra ottica a prezzi paragonabili a quelli di internet oggi? Io penso di sì, penso che tra qualche anno, quando la diffusione di fatto della fibra ottica sarà sufficientemente pervasiva, ci potrà essere anche una fase, diciamo, di, lo chiamo canone, sì, quindi di costo che sarà molto simile o molto vicino a quello del rame, di quello che si paga ad oggi. Per avere però, chiaramente molto di più. Sì. Oggi diciamo che le proiezioni che vengono date oggi all'interno del business plan che è stato fatto, perché la realtà, come dicevi tu prima, deve sostenersi, non è un'attività di pubblico ma è un'attività di mercato, quindi deve sostenersi. Oggi di fatto prevede, a fronte di un canone che normalmente sul rame è poco, circa sui 9,30 euro all'ingrosso per gli operatori, in questo caso si prevede un prezzo all'ingrosso per gli operatori tra i 13 e i 14 euro. Dunque, nelle zone, e così concludiamo questa prima parte di 2024, nelle zone dove invece non ci si può fare business e quindi gli operatori privati di certo non sono interessati ad entrare in società. Che cosa fa la provincia in questo territorio? Questa è la parte interessante, credo, del progetto, perché non si è distinto e si fa un territorio di serie A, un territorio di serie B. Territorio dove di fatto il privato non ha dimostrato di avere piani di investimento, non li farà. Si è deciso di operare con l'altra società, con l'in-house, che è partita nel 2006 a fare l'infrastruttura, che completerà l'infrastruttura anche con l'ultimo miglio. Di fatto impegnandosi a portare la fibra ottica anche in queste aree, con un costo ad abitazione che sarà maggiore, perché parliamo di densità abitative molto più sparute e dall'altra parte anche distanze tra le abitazioni maggiori. Però l'obiettivo è, per questo, nel termine che abbiamo dato prima, verso il 2018-2019, arrivare con una soluzione che sia per l'intero territorio e non solamente per territorio profittevole, difformemente dal territorio meno profittevole. Sì. Quando vedremo le prime abitazioni collegate in fibra ottica? L'impegno di questa realtà, che sta aspettando in questo momento ancora di vedere completato anche l'iter di verifica, che comunque stiamo aspettando in sede europea, è quello per quest'anno di puntare principalmente alle aree produttive. Quindi, prima di parlare di unità abitative, vorremmo quest'anno, vista anche la congiuntura economica e la crisi che sta mordendo tutto il mondo, di spingere nelle aree produttive, quindi di favorire le prime 6-7 aree produttive del Trentino, per materialmente li portare veramente connettività e mettere subito alla prova quei ritorni che abbiamo detto esserci e che sono stati tanto scritti anche nei documenti di crescita del prodotto interno, delle capacità di stare sul mercato. Parallelamente, nelle nuove aree, come a Trento si sta realizzando una importante area disegnata da Renzo Piano, lì sicuramente si sta spingendo affinché quest'area nasca già digital divide oriented e quindi già in fibra ottica. Not Digital Divide Oriented. Not Digital Divide Oriented, corretto. Grazie a Sergio Bettotti per il lavoro che fa, perché insomma è il tuo lavoro, però sì, ci vuole poi anche un po' di passione, perché le cose sono piuttosto complicate, molto complesse. Grazie a Sergio Bettotti per averci raccontato questa esperienza interessante. Visto che il tutto non accade domani, potremo sicuramente riparlarne. Bene, ci risentiamo dopo le notizie di GR24, parleremo di sicurezza informatica, di guerra digitale. Bettotti, a presto. Grazie. Seconda parte di 2024 in diretta da Trento Festival dell'Economia. Radio 24 è qui da qualche giorno per raccontarvi parte del festival, ma anche per incontrare i nostri ascoltatori. Saluto Alessio Pennasilico, benvenuto a 2024. Ciao Alessio. Ciao, grazie di avermi invitato qui. Sono anche da ex studente dell'Università di Trento, sono contentissimo di essere qui con voi oggi. Sei contento di essere a Trento. Senti, tu ti occupi di sicurezza informatica per mestiere, per lavoro, hai un'azienda che si occupa di questo tema, non solo in Italia ma in giro per tanti paesi, giri il mondo. E infatti è da un po' di tempo che ci siamo accordati su questa data. Sì, per incastrare la tua agenda. Tu sei un, diciamolo, un hacker. Ethical hacker, perché purtroppo nel corso degli ultimi anni questa parola ha assunto un connotato negativo, cioè l'hacker sembra uno smanettone che entra, ti ruba i dati, ti rovina il computer. In realtà sono i malicious hacker che fanno questa cosa, cioè sono i cattivi. L'hacker buono è invece quello che studia, esamina, divulga, racconta cosa succede nel mondo della tecnologia. Un ricercatore in tema di sicurezza informatica, qualcuno che vuole capire come funzionano le cose, le smonta e prova per vedere come funzionano e poi prova a rimontarle affinché funzionino un pochino meglio. Per raccontare le persone che hai appena definito entrano, mi rubano i dati, mi portano via il database dei clienti o delle carte di credito, beh, ce l'abbiamo già la parola per raccontare questa cosa, si chiama criminale, si chiama ladro. Sì, sì. Senti, questa settimana io ho letto un po' di articoli che ci raccontano di un sofisticato, io lo chiamo virus per farci capire, perché più o meno tutti sanno di che cosa stiamo parlando, di un virus informatico che ha attaccato addirittura delle infrastrutture in Iran. Allora c'è chi parla di cyberspionaggio, di cyberguerra, di guerra digitale, di spionaggio digitale. Poi durante la settimana dopo questa notizia sono usciti degli approfondimenti negli Stati Uniti che ci raccontano che l'amministrazione Obama sta continuando progetti dell'amministrazione Bush che ha creato infrastrutture all'interno dell'esercito americano ed esiste addirittura al Pentagono proprio la divisione cyber che fa e si dedica alla guerra digitale. Diciamo, gli Stati Uniti sono fortemente impegnati su questo tema. Cosa sta succedendo? Questa è l'ennesima notizia che si incastra all'interno di questo contesto. Cominciavano a raffreddarsi gli animi dalle notizie sui vari Stuxnet e quant'altro dei mesi scorsi, per arrivare a questo nuovo episodio in merito a Flame. Ah sì, non l'ho detto che si chiama Flame, poi questi nomi non so chi glieli dia. Sono nomi di fantasia. A volte chi lo scopre, a volte sta nel codice, a volte le case di antivirus nel momento in cui vanno a identificarli in qualche modo, quindi di norma o è fantasia o si trova, c'è un elemento concreto su cui basarsi. Okay. L'episodio, ripeto, si colloca all'interno di uno schema ben più ampio al quale stiamo assistendo da diversi anni. Decisamente gli interessi in gioco, parlando di informazioni che transitano in rete, sono altissimi e quindi ci sono tanti governi che stanno lavorando al fine di poter avere un controllo su queste informazioni, nel bene e nel male. L'antiterrorismo, per prendere un contesto banale, può essere molto utile, può portare a degli estremi se usato in maniera malvagia. Quindi questa notizia ci sta raccontando una volta di più quanto alcuni governi ci tengano a poter intervenire in maniera anche attiva, quindi non soltanto carpendo informazioni ma anche intervenendo e causando qualcosa alla vita degli altri governi. Gli Stati Uniti sono sicuramente in prima linea da questo punto di vista, ma non sono sicuramente gli unici, e non serve arrivare fino in Asia per trovare altri esempi. Qui in Europa se ne trovano altri di altrettanto efficaci, tipo? Ma anche qui in Italia, insomma, siamo bravi. Ah sì sì, internazionalmente, sia nella scena hacker sia da un punto di vista di questo tipo di operazioni, viene riconosciuta all'Italia una discreta attività dal punto di vista della fantasia che sappiamo applicare, oltre alla competenza che abbiamo in determinati contesti, per cui non siamo proprio in fondo alla scala, non siamo quelli peggiori una volta tanto. Senti, questo concetto di cyber warfare, quindi la guerra digitale, è un concetto che ha anche già oggi visto delle diramazioni concrete, o è ancora un esercizio, cioè ci sono delle piccole battaglie, qualche Stato che ruba dati ad un altro Stato, che attacca un'infrastruttura? Perché ad esempio in questo caso stiamo parlando di un attacco fatto all'Iran, ed è già la seconda volta in modo massiccio che ha preso di mira l'Iran per tutto il progetto nucleare. C'è qualcosa di concreto? Stiamo ancora parlando di uno scenario lontano dal reale? Allora, chiaramente bisogna dare credito alle notizie che fuoriescono, bisogna interpretare un pochino il contesto. Volendo prestare fede a tutte le notizie che girano, decisamente lo scenario è molto molto concreto. Negli Stati Uniti c'è da anni una campagna attivissima, così come in Asia, di reclutamento di persone esperte in termini di tecnologia da arruolare nell'esercito per poter fare intelligence, quindi carpire informazioni, sia poter aiutare in qualche cosa di un pochino più attivo nei confronti degli altri stati. Veniva banalmente raccontato addirittura nel 1992 da un film che si chiama Sneakers, i signori della truffa, dove nella scena finale il cattivo dice all'altro: c'è una guerra mondiale là fuori, non la vincerà chi ha più pallottole ma chi comanda le informazioni. E questo è un paradigma assolutamente condiviso e noto a quasi tutti i governi che lavorano attivamente da questo punto di vista. Quindi sì, è uno scenario concretissimo, con risvolti reali, azioni reali, persone reali e un sacco di soldi che girano. E questo dovrebbe interessare o preoccupare anche e soprattutto le aziende, perché a proposito di chi vincerà se controlla l'informazione, oggi molte aziende vincono se hanno un know-how delle informazioni e riescono poi a proteggerle anche queste informazioni. Assolutamente, sempre di questa settimana passato un pochino più in sordina, perché cosa vuoi, Flame fa molto più notizie ed è molto più grazioso da raccontare. Contemporaneamente abbiamo assistito alla notizia di dell'amministratore delegato della Saab che aveva in corso una trattativa con il governo svizzero per la vendita di alcuni caccia, chiaramente una trattativa che faceva gola a molte altre aziende, e lui lamenta il fatto che qualcuno si sia inserito all'interno del suo cellulare per capire le sue mail, i suoi sms e le sue telefonate. E stiamo parlando di una tecnologia assolutamente alla portata di chiunque oggi, tanto delle forze di polizia quanto di aziende private che vogliono intervenire in questo senso. Ah, stiamo parlando di una tecnologia disponibile a tutti? Cioè a molti? A chiunque, cioè, abbia quel minimo di denaro da investire. Cioè tu mi stai dicendo che, fatti i dovuti paragoni, cioè si trova facilmente tritolo? Avendo la giusta quantità di denaro a disposizione e sapendo dove andarlo a cercare, sì. Su questo torneremo tra poco. Dico solo che la Saab è parente di quella che faceva le automobili, ma in questo caso fa i cacciabombardieri. Sì, sì, cacciabombardieri, certo. Gli aeroplani. Questo è 2024, in diretta oggi dal Festival dell'Economia di Trento, quindi potete, oltre che telefonarci, mandarci messaggi, anche venirci a trovare nel nostro studio in centro a Trento, pochi metri dal Duomo, in piazza Pasi. Ci fermiamo per un minuto, vi ricordo che potete comunicare con noi per parlare di sicurezza. Tra poco vorrei chiedere ad Alessio, ad esempio, di cosa dobbiamo preoccuparci noi in casa. Ad esempio il cloud computing, siamo certi che sia sicuro? Numero verde 800 24 00 24, gli sms 349 238 6666. Potete utilizzare anche l'email 2024@radio24.it oppure Facebook, Twitter, eccetera eccetera. Ci risentiamo tra un minuto. Vi ricordo che questa puntata di 2024, come del resto tutte le nostre puntate, sarà disponibile all'interno del servizio podcast di Radio 24. Questa settimana è una settimana importante, potremmo dire decisiva, per la nomina dei vertici dell'AGCOM, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Questo è un tema di cui abbiamo parlato spesso. 2024 è un appuntamento molto importante per il futuro della rete internet, sia per la diffusione dell'infrastruttura. Abbiamo parlato nella prima parte della diffusione della fibra ottica nel nostro paese, e in questo contesto l'AGCOM ha un'importanza molto rilevante, anche grazie o a causa delle norme europee. Mercoledì è fissato il voto della Camera, che deve nominare due dei quattro commissari, altri due li deve nominare il Senato, mentre il Governo deve indicare il Presidente. Un voto importante, dicevo, per il futuro, non solo per la diffusione dell'infrastruttura, ma anche per la democrazia digitale su Internet. Di sicuro c'è una cosa certa di cui siamo contenti: la candidatura che è nata in rete, supportata anche da Alessio Pennasilico, che fa il tifo, di Stefano Quintarelli, che noi supportiamo. È un collega di Clusit, gli vogliamo molto bene ed è una delle persone più competenti in tema. Esatto, il Clusit è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Dicevo, noi sicuramente supportiamo Stefano Quintarelli perché è un uomo della rete che capisce, sì, molto bene e comprende non solo tecnicamente ma anche economicamente il valore della rete internet. Però dicevo, la cosa bella e positiva è che la candidatura che è supportata dalla rete, sono state raccolte quasi 15.000, adesso non so a che punto siamo arrivati. Oltre 15.000 firme in meno di 48 ore, le 10.000 in meno di 24. È importante. Però questo è servito per elevare la qualità delle altre candidature. Allora, c'è qualche candidatura che proprio andrebbe cancellata con la matita rossa, però questo è stato importante. Allora speriamo, questa è una speranza che dura ancora per qualche giorno, poi vedremo, che i partiti abbiano compreso l'importanza di questo voto. E dirò di più, questa è anche un'occasione per i partiti per dimostrare che hanno capito che le cose stanno cambiando in Italia, perché visto che i commissari e il presidente durano per 7 anni, a meno di dimissioni, a meno di qualche cosa di strano, insomma, questo è sicuramente un voto e un appuntamento molto importante. Prima di continuare, Alessio, do solo un'altra notizia agli ascoltatori, che è importante anche perché abbiamo seguito la prima missione spaziale privata diretta alla Stazione Spaziale Internazionale. Si è conclusa questa settimana, parliamo della capsula Dragon, che è ammarrata giovedì nell'Oceano Pacifico. È stata lanciata da una società che si chiama SpaceX. Ne abbiamo parlato nelle ultime due puntate. Nell'ultima puntata trovate una chiacchierata molto divertente, molto interessante, con Marco Villa, che è capo della missione a SpaceX, che quindi ci ha raccontato come funziona e perché è importante questa nuova prospettiva per lo spazio. Anche nello spazio noi italiani diciamo la nostra in modo concreto e facciamo bella figura. Dunque, Alessio, tornando alla sicurezza o alla insicurezza informatica, dicevo, le aziende si dovrebbero preoccupare, perché tra le tante notizie che commentiamo anche in questo caso spesso dagli Stati Uniti, vediamo che molte aziende vengono attaccate perché il know-how, le informazioni, la proprietà intellettuale dovrebbe rimanere chiusa negli uffici delle aziende, ma in realtà poi scappa di qua e di là. Purtroppo succede molto spesso per diverse ragioni. Da anni è in corso un dibattito sul i cattivi stanno davvero fuori o molto spesso sono dentro. Purtroppo succede anche questo. Detto questo, parlando di rischi reali, come nominavi prima della pubblicità, in questo momento accade che ci siano alcuni servizi che sono estremamente pubblicizzati. Adesso non vorrei passare per una persona che dice il cloud è sbagliato, non va bene, no, non funziona. Anzi, no, anche perché ti interrompo per dire una cosa. Di fronte a queste minacce, a questi problemi di sicurezza, c'è chi dice: ah, allora ho ragione io a non mettere le cose su internet. Allora, ci sono alcune cose che stanno accadendo, il mondo si sta digitalizzando e i vantaggi sono indiscutibili. Su questo non dobbiamo scendere a compromessi di alcun tipo. È come dire: l'automobile, se ti schianti, è pericolosa, allora non utilizzo l'automobile. La utilizziamo nel modo opportuno. A fantastico esempio. Esatto, si può andare a piedi e a volte si deve utilizzare l'automobile, oppure il treno, oppure l'aeroplano. Allora, in questo contesto le cose evolvono e accadono. Ad esempio, il cloud computing. Ma è sicuramente un'occasione eccezionale per poter fare un sacco di cose meravigliosi se usato nel modo corretto. Purtroppo io, occupandomi di sicurezza informatica, ho una forma mentis che mi porta alla paranoia verso qualsiasi cosa devo usare per la prima volta, quindi a valutarne quali possono essere gli aspetti negativi, e evidentemente proprio la prima cosa che viene in mente è: c'è qualcun altro che è tecnicamente in grado di poter accedere alle informazioni che io ne sto gestendo o comunque ho messo in quel luogo, e che ne ha una qualche sorta di controllo in proposito, quindi non solo in termini di accesso, ma anche in fatto di privarmi dell'accesso a quei dati. E questo per me non è sempre tollerabile per qualsiasi tipo di dato che un'azienda deve gestire. Quindi va fatta questa analisi del rischio per capire questo ci può stare, questo no. Senti, c'è chi dice, parlando proprio di cloud computing, che sicuramente sono più sicure e più protette le infrastrutture di grandi aziende che ci forniscono i servizi di cloud computing piuttosto che quello che possiamo fare all'interno della nostra azienda. Allora, il ragionamento ci può stare, è corretto. Salvo poi scendere magari in qualche caso concreto. Uno degli episodi che sto nominando più spesso alle conferenze a cui partecipo è il caso di Mega Upload, che è stato sulle prime pagine dei giornali per diverse settimane. Azienda enorme, usata da tantissimi. Adesso dimentichiamoci per un secondo chi lo usava per caricare i film e gli MP3. Era davvero un servizio che per condividere file di grandi dimensioni senza poterseli spedire per email o altro era davvero efficiente, e per i costi che proponeva anche davvero utile. Tant'è che andando sul loro sito si trovavano molte aziende anche di importanza mondiale, tipo Pepsi o Walmart, che usavano quel servizio per condividere file con clienti e fornitori. Sì. Eccezionale. E quindi dove sta la cosa brutta? La cosa brutta sta che quando l'hanno chiuso hanno arrestato tutto l'amministratore delegato e tutto il board, dicendo: ah, lo scandalo della musica e dei film condivisi. Si scopre che l'amministratore delegato è una persona che conosco da una ventina d'anni. Kim.com, perché è andato all'anagrafe a farsi cambiare il cognome in .com. È eccezionale. Incredibile. È al suo quarto arresto per qualche cosa che ha a che fare con reati legati a un ambiente informatico. Ora, io non voglio dire che lui fosse malvagio e facesse cose sbagliate, ma di fatto ci stiamo mettendo in un contesto in cui c'era un'azienda che aveva dei dati in un luogo dove un pregiudicato, e nessuno sapeva che lo fosse, poteva tecnicamente dire ai suoi tecnici: ora fammi vedere cosa c'è scritto dentro le informazioni che ha caricato la Pepsi oggi. E poi, dopo l'arresto, hanno chiuso l'azienda e tutti i dati che sono stati caricati lì sopra, quelle aziende ne potranno rientrare in possesso oppure no? E ora che sono oggetto di un dibattimento in tribunale, dovranno essere accettati come prove, diverranno di pubblico dominio magari quei dati, chi può dirlo? E dopo che il processo sarà concluso, la copia di quei dati che sta su quei server sarà accessibile a chi? Quindi tutte queste domande però per me sono inquietanti. Attenzione, perché sono preoccupato. In teoria le domande le dovrei fare io, hai fatto una fila di domande alle quali io non so rispondere. Tu dovresti rispondere. La risposta è: se io lì sopra conto di metterci magari l'elenco dei miei clienti con le statistiche del fatturato, magari ci penserei un secondo prima di farlo. Se sto condividendo il disegno di un nuovo innovativo macchinario che ho appena inventato e che mi frutterà milioni di euro nei prossimi anni, ecco, forse troverei un sistema diverso dal cloud pubblico per poter condividere quell'informazione con altri, quindi qualcosa che lasci quell'informazione sotto un mio controllo un pochino più diretto. Chiaro. Ci sono delle ricette per essere sicuri nel nostro approccio verso il cloud? Sì. Essere sicuri è una certezza eccessiva. Io so perché Alessio si mette a ridere, perché allora sapete che io, ma in generale tutti i giornalisti, cercano di semplificare, di avere delle risposte chiare, e in questo contesto, purtroppo, quello della sicurezza informatica, le cose non sono così semplici come noi vorremmo, e quindi capisco che tu ridi per questo motivo. Allora, io sono preoccupato ad oggi dalla diffusione di tanti servizi di condivisione delle informazioni online. Sono il primo utilizzatore di uno smartphone, un tablet e un computer che attraverso alcuni servizi cloud mi permettono di condividere informazioni su tutti e tre gli strumenti e mi permettono di condividerle con altri, e ritengo utilissimo questo strumento. Pensa che a volte vado a qualche conferenza, mi chiedono di dare le slide, nel momento in cui magari è un file molto grande, poterlo condividere con questi servizi è estremamente opportuno. Nel momento in cui vengo a scoprire, per esempio, che un avvocato che abita nella mia città usa lo stesso strumento per condividere gli atti dei dibattimenti in corso, ecco, questo mi terrorizza. Quindi non esiste una soluzione tecnica per rendere sicuro questo contesto. Esiste una soluzione che dice: tu dovresti pensare a quanto è vitale l'informazione che stai gestendo, che impatto ha se diventa pubblica, e di conseguenza pensare se può andare in quel contesto oppure no. Sì. Senti, tu prima dicevi: è facile trovare le competenze per non diventare direttamente noi dei criminali informatici, ma magari rubare informazioni, eccetera eccetera. Ma quanto facile? Purtroppo molto facile. I primi esempi li abbiamo già avuti negli anni 80, quando addirittura c'erano dei ragazzi tedeschi che venivano pagati dal governo dell'Europa dell'Est per trafugare informazioni che andavano a prendere sui server statunitensi. Quindi il problema è noto e succede da moltissimo tempo. Purtroppo il numero di persone esperte in termini di informatica è in aumento, e le persone che non hanno un'etica in proposito è in aumento ancora più vertiginosamente. Per cui trovare qualcuno che magari non è espertissimo, ma ha quel livello di competenza appena sufficiente per essere in grado di gestire una truffa, qualche tipo di operazione illegale, è sempre più semplice, è sempre più economico. Senti, poi magari ti farò anche qualche domanda su quello che noi possiamo fare a casa, oppure possiamo fare nel nostro piccolo ufficio, perché è logico ed evidente che le aziende devono poi rivolgersi a professionisti, hanno delle infrastrutture più complesse da proteggere, ma gli stati e quindi le polizie nel mondo si stanno adeguando, e a tuo parere, anche guardando all'Italia, abbiamo una infrastruttura, un'organizzazione che può difenderci da quello che sta succedendo? Ma allora, sicuramente negli anni abbiamo potuto assistere a un'evoluzione decisamente importante e positiva da questo punto di vista. Le strutture, perché ce n'è più di una oggi in Italia, che sono deputate alla protezione di cittadini e aziende dal punto di vista delle problematiche legate alla tecnologia, se le dobbiamo paragonare a quelle, per esempio, che hanno gestito nel 1994 il crackdown, stiamo parlando di due contesti completamente diversi. Siamo passati da persone che di tecnologia sapevano poco o niente, e nell'atto del sequestro mi portavano via il tappettino del mouse perché potrebbe contenere dei dati, ad oggi, dove invece ci sono decisamente persone molto preparate, molto competenti, e che molto spesso, al di là della gestione della truffa che viene denunciata, sono addirittura proattive nel dire a qualche azienda: guarda che c'è in corso questa cosa, difenditi nel modo corretto o adotta queste misure. Quindi sì, sicuramente è evoluto, e in maniera positiva. In diretta dal Festival dell'Economia di Trento, in centro in Piazza Pasi, con il nostro studio. Oggi è con noi nella seconda parte di 2024 Alessio Pennasilico, che si occupa di sicurezza informatica. Stiamo parlando di tante cose che stanno succedendo nel mondo, dalle più complesse forse a noi lontane, cioè la guerra digitale in atto tra paesi. Abbiamo citato il caso degli Stati Uniti e non so quali altri paesi, alcuni naturalmente citano Israele nei confronti dell'Iran. Beh, sicuramente evidentemente adesso Israele è tra le nazioni tecnologicamente, anche dal punto di vista informatico, più avanzate. Assolutamente, assistiamo là non soltanto a operazioni di questo tipo che stanno venendo a galla ora, ma anche guardando in termini di aziende che vendono prodotti per l'informatica, ci sono molte aziende israeliane che fanno proprio prodotti per tutelare la sicurezza delle informazioni. Senti, un dato interessante, penso già da qualche anno, ma visto che tu hai un'azienda che si occupa di questo tema, c'è lavoro in questo settore, giusto? Ah, direi di sì. Sicuramente è un contesto al quale è difficile rinunciare. Il danno che subirei a fronte della perdita di operatività dell'azienda, perché ormai se mi si fermano i computer o se fuori in azienda o se mi escono copia di tutte le informazioni che gestisco, è un danno molto più grave di un incendio in magazzino, tutto sommato. Sì, certo. Quindi per fortuna chiunque gestisca in modo saggio un'azienda si rende conto che quella è un'area dove non si può tagliare l'investimento. E anzi, contemporaneamente ci sono molte aziende che per reagire alla crisi stanno investendo in tecnologia proprio per essere un gradino avanti rispetto a dei competitor. E la sicurezza informatica dentro c'è sempre, evidentemente. Senti, a casa nostra che cosa dobbiamo fare? Al di là di aggiornare i sistemi, installare il sistema operativo, eccetera, installare un antivirus, eccetera, eccetera. Ma allora, secondo me, sempre prima di arrivare allo strumento tecnologico, devo sempre partire dalla mia testa e a pensare che cosa sto facendo. Se io ad esempio tengo memorizzati all'interno del mio computer in un file di testo sul desktop tutti quanti i miei dati della carta di credito, non c'è misura tecnologica che io possa adottare, prima o poi qualche cosa di malvagio succederà. Quindi sicuramente tutti gli strumenti che hai citato, quindi mettere gli aggiornamenti, mettere l'antivirus, mi servono. Ma se non mi comporto nel modo corretto, prima o poi qualcosa di malvagio accadrà. Quindi non registro sul mio computer cose che in mano a terzi potrebbero causarmi un danno. Le credenziali dell'home banking me le devo ricordare a memoria, non c'è niente da fare, non vanno scritte su un post-it e non vanno scritte dentro il computer al quale faccio un banking. E se io le scrivo, no, perché ti cito il mio caso, se le scrivo su un file di testo che è protetto da password? Di nuovo non sei convinto, allora cambio strategia. Dipende, la password si può indovinare, è solo questione di tempo. Indipendentemente da questo, tolto che si può criptare, e lo preferirei rispetto al mero utilizzo di una password. Senti, a tuo parere, chi utilizza il computer? Sappiamo il problema dell'Italia, che insomma, metà della popolazione utilizza il computer, sono un sacco di ignoranti informatici, e questo è un grave problema per il paese. Come giusto che sia. Come giusto che sia. Non possono essere tutti esperti di informatica, è impossibile. No, dico ignoranti nel senso che non lo usano proprio. Ah, ok. Quindi, no, questo è grave. Insomma. Ecco, però, al di là di questo, secondo te chi utilizza internet, chi utilizza il computer, è sufficientemente informato di questi problemi, di questi pericoli, oppure no? Ce ne dimentichiamo troppo spesso. Mentre, come dire, oramai molta gente mette la cintura di sicurezza per strada non solo perché è obbligatoria, ma anche perché capisce che se si schianta sbatte la testa contro il vetro, quindi è anche una precauzione personale. Sul computer, allora, l'esempio che hai portato è estremamente calzante. Stiamo parlando di uno strumento che usiamo da molto tempo, l'automobile, che abbiamo imparato in qualche modo a conoscere. Eppure, nonostante ciò, io tenderei a dire che se togliessimo la multa per chi non porta la cintura, ancora molti girerebbero senza cintura. Abbiamo bisogno di una legge che dica che devo mettere la cintura, altrimenti le persone non la metterebbero. E stiamo parlando della loro incolumità, vero? Esatto, che è la cosa più importante. Portalo nell'ambito informatica, no. Dai più giovani, che quindi hanno un feeling molto diverso con la tecnologia, sembrano molto esperti perché si muovono con disinvoltura da un'applicazione all'altra, spostano i dati, ma non hanno la consapevolezza di che cosa può succedere all'informazione che gestiscono. L'esempio che faccio di norma è un adolescente non ha percezione che quello che io scrivo su Facebook oggi, tra 15 anni, sarà letto dal mio possibile datore di lavoro per valutarmi durante un colloquio. Ammesso che fra 15 anni ci sia ancora Facebook, però vabbè, diciamo, a parte la parentesi, la battuta. Senza arrivare ad adolescenti, questo non succede neanche ai trentenni di oggi. Io quando faccio selezione in azienda da me, sicuramente faccio una ricerca online della persona che sto per selezionare e mi rendo conto che molti scrivono senza pensare a c'è qualcuno che leggerà. Questo è facile, spostiamolo sul il mio conto corrente e i miei pagamenti online o altro. L'esempio che io faccio più spesso è: a quanti servizi online accedi dove il nome utente è per entrare, la tua email sempre la solita e la tua password è sempre la solita? Ah, quindi ho indovinato la tua password di Facebook e conosco anche quella di Amazon, quella di eBay, quella di Twitter, quella di qualsiasi altro sito con delle credenziali. Non va bene. Ci stai disegnando un mondo preoccupante. Purtroppo perché pochi giorni fa parlavo con una persona e mi diceva: ma io ho 80 milioni di numeri di telefono. Come 80 milioni di numeri di telefono? Certo, perché ho delle applicazioni, faccio girare queste applicazioni sui vari negozi, dall'App Store eccetera eccetera. Questa applicazione ti chiede, per funzionare ho bisogno di accedere alla tua rubrica, accetti o non accetti? Chi è accetto, che tutti premono tutti accettano. Yes. Quindi, come dire, stiamo disegnando un mondo che è molto facilmente attaccabile dai malintenzionati. Ti dirò di più, questa cosa dell'applicazione che ti chiede i diritti per accedere a informazioni che stanno nel tuo telefono, nel tuo tablet, è uno scandalo che è uscito un po' di tempo fa e ci fu un'analisi proprio su N applicazioni di larga diffusione. Ok, oltre ai numeri che ho nella rubrica, le coordinate GPS del dove mi trovo, perché il mio telefono sa perfettamente dove sono, quindi un'applicazione può tenere traccia dei miei spostamenti e comunicarla a terzi. Non proprio benissimo dal mio punto di vista. E come facciamo per difenderci? Non dovremmo, allora, dovremmo leggere tutte le informazioni che ci vengono messe a disposizione quando ci troviamo di fronte a accetta o non accetta per installare un'applicazione. Provo a semplificarla. Semplifica. Ti do uno dei consigli che davo quando inizialmente si parlava di pagamenti con carta di credito su internet. Sì. Per me la grande discriminante è chi sto pagando. Se sto pagando la Levis, probabilmente ci sarà una misura di protezione molto diversa che non se sto pagando il macellaio. Quel che hanno da perdere è molto più ingente. Sì. E questo proprio come sensazione. Invece dal punto di vista tecnologico, ma lo stanno gestendo loro il pagamento o lo fanno gestire ad una banca? Perché se lo stanno gestendo loro magari gli ruberanno quelle informazioni, se lo sta gestendo una banca quantomeno per legge deve essersi regolata in merito a un sacco di misure. Sulle applicazioni è un po' lo stesso, ma io ho scaricato l'applicazione ufficiale di Facebook o ho scaricato l'applicazione di Mario che mi permette di pubblicare su Facebook delle foto. Sono due oggetti molto diversi. Non dico che al primo l'applicazione ufficiale di Facebook devo dire sì sempre e comunque, ci devo pensare. Alla seconda però ci devo pensare molto meglio, molto sì, di più e con più attenzione. Però il problema è che il fascino delle applicazioni, che magari fanno anche cose simpatiche, stupide, e io provo l'applicazione per 15 minuti e poi magari la cancello, ma in quei 15 minuti può capitare di tutto. Qualsiasi cosa. Sempre quando parlo di sicurezza in termini di device mobili che entrano all'interno dell'azienda, evidentemente è impensabile dire ti do un iPad aziendale e tu non ci puoi installare delle applicazioni, causerebbe un conflitto molto forte con le persone. Che tipo di sicurezza conto di fare con degli utenti? Ti prendo un'applicazione per Android che si chiama FartDroid, per chi non conosce l'inglese, insomma, fart è il rumore di una scoreggia, si può dire in sì, radio, sì, diciamolo. Detto, quindi si può. 50.000 persone l'hanno installato in una settimana. Che tipo di sicurezza mi aspetto? Devo considerare che usa quei device persone a rischio per l'ambiente aziendale, quindi comincerò a configurare tutto quanto in azienda nel modo corretto per proteggermi da questo. Quello che devo chiedere a quelle persone non è di installare qualcosa, è di fare attenzione a che cosa installano e dove premono sì. Quindi mi sembra di capire che, ma è una cosa che ci diciamo da 15 anni, che il comportamento che noi dobbiamo avere quando siamo davanti al computer, quando siamo davanti al telefono, quando siamo davanti al tablet, eccetera, eccetera, è più importante di qualsiasi tecnologia che noi installiamo. La mia automobile aveva tra gli accessori che io potevo acquistare una cosa per cui se io impostavo una distanza dal mezzo precedente e la macchina accelerava e frenava in automatico per tenermi a quella distanza dal mezzo precedente. Cruise control adattivo. Fantastico. Sì. Ho tenuto la macchina di prova per un weekend. Quando ho deciso che quella macchina mi piaceva e l'avrei comprata, quell'accessorio io non l'ho comprato perché passavo tutto il tempo col piede vicino al freno, perché frenerà davvero la macchina quando mi sto avvicinando troppo alla macchina davanti? Io la penso così. Con la tecnologia è la stessa identica cosa, non mi posso aspettare che esista un programma di computer che possa sostituire me. Io sono più intelligente del computer, lo sarò sempre e il computer sbaglia, inevitabilmente. Bene, adesso ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie che arrivano da Strade e Autostrade. Vi ricordo che troverete questa puntata, come del resto tutte le nostre puntate, nella sezione podcast di Radio 24. Ci sono alcune puntate particolarmente interessanti tra le ultime che abbiamo fatto, ma questa di oggi la inseriamo tra quelle interessanti, quindi la troverete nella sezione del podcast di Radio 24. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica se volete utilizzarlo durante la settimana, che è 2024@radio24.it. Siamo a Trento in diretta dal Festival dell'Economia in centro, quindi potete venirci a trovare se siete nelle vicinanze del centro, vicino al Duomo, vicino alla piazza. Siamo in piazza Pasi, ci risentiamo tra un minuto. L'ultima parte di 2024 in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. Ci trovate anche su Twitter e su Facebook. Con noi Alessio Pennasilico in questa ultima parte per parlare di sicurezza informatica. Sentiamo Graziano che ci telefona dalla vicina Verona, vicina rispetto a Trento. Buongiorno Graziano. Buongiorno, io volevo chiedere una cosa, intanto bella trasmissione, interessante. Comunque la sicurezza è un po' inquietante, il discorso che state facendo che uno, il telefono è rintracciabile via GPS. In pratica un ladro potrebbe sapere sempre dove sono. Allora, certo, aspetta, no, sì, è vero, adesso non abbiamo detto che tutti i telefoni sono controllati da un terzo che noi non conosciamo, diciamo che potenzialmente questo è. Però le faccio una domanda, Graziano, lei che telefono ha? Un telefono, no, uno smartphone. Mie figlie però hanno uno smartphone. I suoi figli hanno uno smartphone. Io sono tecnologicamente poco avanzato, diciamo, un telefono normale, però i miei figli hanno tutti uno smartphone. Esatto. Mi lascia un po' perplesso il discorso che uno può essere rintracciabile. Penso a gente che ha già lo smartphone, può essere rintracciato dappertutto. Uno che ha un telefono col GPS, in pratica, può essere usato anche da ladri o cose del genere, o è una cosa un po' protetta, ecco. Esatto. Graziano, grazie per averci chiamato. Può ascoltare la risposta per radio. Alessio, allora diciamo subito che non è che tutti i telefoni possono, però, cioè, come dire, il ladro può venire in casa nostra. Non è che tutte le sere tutte le case sono svaligiate. Allora, il problema è ancora diverso. Sicuramente c'è la possibilità per alcune applicazioni e per alcuni soggetti di scoprire dove siamo, ma richiede che io sia caduto in qualche tranello, quindi ad esempio, come dicevo prima, aver accettato che un'applicazione registri i miei spostamenti. Quindi comunque stiamo parlando di casi abbastanza limitati, tutto sommato. Sì, quindi però... da avere uno smartphone non significa qualcuno mi controlla. Devo aver fatto qualcosa di sbagliato per aver messo qualcun altro in grado di controllarmi. Certo. Detto questo, la stessa funzionalità, giusto perché era un padre preoccupato che stava telefonando, è la stessa identica funzionalità che peraltro viene usata da molte applicazioni per dire: do un telefono ad un mio figlio molto piccolo in maniera che io genitore possa tenere traccia di dove va mio figlio per poterlo controllare. Non entro nel è giusto o sbagliato. Sì, però ci sono delle applicazioni, però, ne abbiamo parlato anche 2024, che ti permettono di tenere traccia del... Di chiunque, insomma. Per cui la stessa tecnologia viene usata in maniera buona, se vogliamo. Sì. Dal punto di vista vengono i ladri a casa mia, vorrei segnalare un sito che si chiama iRob You, che è carinissimo perché riesce a prendere si appoggia ad un problema molto più grave. Se viene il ladro a casa mia, non viene perché sta seguendo le mie coordinate GPS sul telefono, probabilmente perché ho scritto su Facebook: ehi, vado in ferie per 15 giorni, vado in quel posto lì. E quindi c'è un sito dove, collegandosi, comincia a cercare su tutti i profili pubblici di chiunque in una certa zona chi ha detto sarò via per un certo numero di giorni su Facebook, su Twitter o altro, per dire, ehi, in questa casa, a questo indirizzo, si può rubare per questo trot di tempo, perché ovviamente lo scopo del sito è quello di sensibilizzare le persone a non violare i consigli che ci danno da quando eravamo bambini: se vai in ferie non attaccare un cartello sulla porta che dice sono in ferie per 10 giorni. Sì, questo è importante. Comunque lo risottolineiamo, perché questo è importante, non è che vogliamo allarmare migliaia o milioni di persone. Stiamo parlando di possibilità, non di certezze disponibili a tutti. E che richiedono di aver fatto qualcosa di sbagliato, tipo aver installato un'applicazione cattiva e averla autorizzata a inviare quelle informazioni. Ma se io pubblico su Facebook questa notizia, cioè che vado in ferie per 15 giorni, che non è vero, sì. Naturalmente se la vedono solo i miei amici, Non è un'informazione che può essere... Devo avere un profilo che è impostato per far vedere l'informazione solo ai miei amici. Quanti hanno un profilo leggibile da chiunque? Sì. Tantissimi. Questo effettivamente è un problema. Senti, dal tuo punto di vista, sono più pericolosi gli smartphone o il nostro computer, dal punto di vista della security? Allora, tenderei a dire che si equivalgono da un punto di vista tecnico. Di più lo smartphone e il tablet per un problema di percezione del rischio. Non tendo a ritenere pericoloso il telefono perché lo uso da molto tempo e non mi sono successe cose molto malvagie col telefono, mentre col computer sono abituato a pensare che posso pigliare il virus col computer. Non penso neanche di poter prendere un virus per il telefono, e invece c'è. Sì. Riccardo da Genova, buongiorno, benvenuto. Buongiorno e vi ringrazio perché la vostra trasmissione è sempre molto puntuale e interessante. E comunque grazie. Io sono un responsabile del trattamento di dati personali per alcune aziende e volevo confermare un aspetto di superficialità che c'è soprattutto nella formazione del personale, perché in realtà viene considerata una specie di obbligo fastidioso, e che in molte aziende il personale in realtà si comporta nella maniera più banale rispetto ai minimi sistemi, livelli di protezione come la SAR, la password attaccata sul post-it o metterla sotto la tastiera del computer. Ma a parte questo, volevo dire che mentre fino a poco tempo fa avevo delle linee guida abbastanza precise che facevo digerire all'azienda, la mia è un'azienda, in particolare quelle che seguo sono delle aziende dello shipping, quindi che trattano dei dati particolarmente sensibili anche dei dipendenti, perché sono spesso i marittimi sottoposti alle visite mediche annuali, sono dati che riguardano anche i test, alcol e droga, eccetera. E con il decreto semplificazione il punto di riferimento principale, che per me era il documento programmatico sulla sicurezza, nel momento in cui facciamo un check-up diciamo a che punto siamo con la sicurezza nella nostra azienda, io lo imponevo un po' all'impresa, questo documento viene eliminato, abrogato per tutti coloro che come dati personali trattano soltanto quelli, i dati personali sensibili, quelli dei propri dipendenti. Ora, questa cosa mi sembra abbastanza paradossale, perché in effetti i dati sensibili dei dipendenti, come in questi casi ma anche in altri, possono essere veramente dei dati che danno origine a dei danni non indifferenti. E l'altro aspetto è che questa cosa viene sostituita da un'autocertificazione, e quindi se da un lato l'azienda è convinta di essersi liberata di un fardello molto pesante, il documento programmatico sulla sicurezza, che poi non è altro che un check-up dello stato dell'opera della protezione dei propri dati nell'ambito dell'azienda, con l'autocertificazione si espone a dichiarare secondo la legge 445 del 2000, cioè quindi commettere un reato penale dichiarando il falso, cosa che accade perché l'azienda è convinta che basta un'autocertificazione per togliersi tutti i problemi. Allora la conclusione di questo mio intervento era che ho la sensazione che al di là di poche persone effettivamente sensibili a questo aspetto, poi dal punto di vista anche diciamo degli alti livelli o anche governativo ci sia un po' una superficialità nell'approcciare un qualche cosa che, proprio come la cintura di sicurezza, serve sì per non essere beccati dal garante, in questo momento non essere neanche beccati dal giudice penale perché 445 è penale, ma serve soprattutto all'azienda per tenersi i propri dati, quindi il proprio patrimonio, la propria ricchezza in protezione. Qui c'è proprio, mi sembra, una mancanza di interesse, di approfondimento, di curiosità anche da parte del governo. Riccardo, lei ha ragione, la ringraziamo per questo intervento puntuale, preciso. Alessio, se vuoi aggiungere qualche cosa abbiamo 30 secondi. sono d'accordissimo con quello appena detto, non mi serve una legge che mi spieghi come proteggere i miei dati. Devo lo faccio perché serve a me. Sì, questo infatti uno degli scopi anche di questa trasmissione, come abbiamo sentito, ci sono sicuramente tanti suggerimenti che potrebbero essere dati, ma non è questo importante. L'importante è avere la consapevolezza che il mondo digitale è fondamentale, importante per le nostre economie, per le nostre aziende, per la nostra vita digitale, ma ci sono dei pericoli e quindi verso questi pericoli dobbiamo proteggerci. Corretto? Assolutamente. Bene, grazie ad Alessio Pennasilico per essere stato con noi, grazie ai nostri ascoltatori, grazie anche ai nostri ascoltatori che sono venuti in Piazza Pasi a Trento, grazie a Filippo Aureggi che si è occupato della parte tecnica, Margherita e Gian Gabriel che è a Milano, Davide Ciocia a Milano, che abbiamo Roberto Scaltritti, indovinato benissimo. Alessio, ciao, a presto. Ciao, grazie. Buon lavoro. Io sono Enrico Pagliarini, tra 30 secondi diamo la linea al giornale radio, anzi tra pochi secondi, 0 secondi, tra poco il podcast sarà online. Appuntamento sabato prossimo. 2024.